don't got it. Dio Sol Invictus. Mediolanum, baby. Sì, sì. Qui c'è le viola, qui c'è le viola. 500 e uno street lambo. Non perdere la fede e ti faranno santo. Soldato non cede, esci dal fango. Qui c'è le viola, qui c'è le viola. 500 e uno street lambo. Non perdere la fede e ti faranno santo. Soldato non cede, esci dal fango. La via di Damasco, non ho incontrato Dio. Nella mia vita al casco, non so che cosa è zio. Ho rischiato proprio tutto, ho rischiato ciò che è mio. Ho scherzato sì con tutti, seguo solo il mio io. Sono un bastardo in cerca della gloria. Muoio combattendo ma scrivo la mia storia. Adesso guardo il cielo e dico colore viola. Voglio solo il contante e tutto il resto è solo noia. Ehi, tutto finisce bene scritto nelle favole. Rispetto e amore sono sì parole magiche, ma nella povertà hanno soluzioni tragiche. E quando hai fame ottieni solo azioni drastiche. Non mi parlare di ricchezza, d'animo fanculo. I soldi fanno la felicità, ne sono sicuro. Prendo la vita, la minaccio, metto faccia al muro. Tu come l'elia mora dritto lo prendi nel... Qui c'è la viola, qui c'è la viola. 500 e uno street lambo. Non perdere la fede e ti faranno santo. Soldato non cede, esci dal fango. Qui c'è la viola, qui c'è la viola. 500 e uno street lambo. Non perdere la fede e ti faranno santo. Soldato non cede, esci dal fango. Vedo i tre magi venuti dritto dall'Asia. Portano ricchezze e doni, vince uno su milioni. Non c'è spazio per il prossimo, niente per il prossimo. Qui l'ambizione uccide come la droga col tossico. E allora spingi la tua vita sempre al massimo. Il cielo viola domina e l'odio mastico. Io non ti ascolto, isolamento monastico. Io non mi leggo, forse MC, io ti castigo. Io voglio vivere nel lusso come un vescovo. Giovanni battezza, scorre denaro liquido. Io non mi biasimo perché sono realistico. Dell'ambizione sono diventato un mistico. Il Vaticano prospera, qui non c'è merito. Su Golgotha Gesù è morto povero. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io non perdono perché tutta la vita è un inganno. Qui c'è la viola, qui c'è la viola. 500 e uno street lambo. Non perdere la fede e ti faranno santo. Soldato non cede, esci dal fango. Qui c'è la viola, qui c'è la viola. 500 e uno street lambo. Non perdere la fede e ti faranno santo. Soldato non cede, esci dal fango. Sì. Qui c'è la viola, qui c'è la viola. 500 e uno street lambo. Non perdere la fede e ti faranno santo. Soldato non cede, esci dal fango. Qui c'è la viola, qui c'è la viola. 500 e uno street lambo. Non perdere la fede e ti faranno santo. Soldato non cede, esci dal fango. Sì.